Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Era un gigante, un intellettuale di altissimo livello, uno scienziato, non della politica soltanto, ma del problema di comunicare. Era uno scienziato della comunicazione. Questa è la definizione da parte di Dario Fo di Gianroberto Casaleggio, quello che è stato considerato il guru del Movimento 5 Stelle, l'inventore, il cofondatore o forse il vero fondatore del Movimento 5 Stelle, che è scomparso a 61 anni. Dario Fo lo definisce uno scienziato della comunicazione, sicuramente ha dato una svolta al modo di fare politica. Ne parleremo ampiamente stasera perché le due notizie principali, almeno per quanto riguarda il nostro paese, sono di politica, appunto il lutto della politica, questo grave lutto con la morte di Casaleggio, e poi la via definitiva, la riforma costituzionale alla Camera, con l'esultazione di Renzi, la contentezza della ministra Boschi e con le opposizioni che hanno lasciato l'aula. E quale sarà il futuro dell'Italia politica istituzionale dopo queste riforme, ma anche quale sarà il futuro del Movimento 5 Stelle? Questa è una domanda che si pongono in molti. Resterà un grave vuoto il Movimento 5 Stelle? In che modo, in quale direzione prenderà, che strade sceglierà, soprattutto quale sarà la nuova leadership del Movimento 5 Stelle? Il famoso direttorio con Fico, Di Battista, Di Maio eccetera, oppure Davide Casaleggio, il figlio di Casaleggio, oppure lo stesso Grillo, che aveva fatto un passo di lato dicendo adesso mi occupo dei miei spettacoli, sì, rimango sempre con un piede nel Movimento 5 Stelle, però voglio che siano autonomi. Cosa ne pensate? Pagina Facebook di Effetto Notte per dare le vostre risposte, le vostre opinioni sul futuro del Movimento 5 Stelle, oppure il numero per i messaggi per i WhatsApp, che è il 349-238-6666. Quindi qual è secondo voi, quale sarà il futuro del Movimento 5 Stelle dopo questo grave lutto? 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, frequentata anche da decine di ascoltatrici e ascoltatori all'estero, quindi immaginatevi anche il programma quanto è ascoltato a qualsiasi latitudine, voi, soprattutto voi che siete comodamente in Italia, quindi non perdete neanche un istante. Come sempre all'inizio vi riassumo la giornata, le notizie più importanti, e poi cominciamo ad approfondire i vari argomenti con i diversi ospiti. Riforme costituzionali, la Camera il sì definitivo, addio al Senato, ora l'ultima parola spetta ai cittadini col referendum di ottobre. La morte di Casaleggio, a 61 anni se n'è andato il fondatore del Movimento 5 Stelle, cordoglio da tutto il mondo politico, giovedì funerali a Milano. La visita di Renzi in Iran, il presidente Rouhani dice vogliamo l'Italia come primo partner. Migranti, Bruxelles boccia il muro del Brennero, non è una soluzione, avverte l'Unione Europea preoccupata, e Vienna replica misure necessarie e giuste. L'assassinio di Regeni, spiragli dall'Egitto per la consegna dei tabulati, ma l'inchiesta sarà lunga, Londra chiede più trasparenza. Borse, banche a picco in Piazza Affari e il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime del prodotto interno lordo italiano e mondiale. Svizzera, una giovane ricercatrice torinese uccisa da un rapinatore a Ginevra. Calcio, prima giornata del Milan col nuovo allenatore Brocchi, e per il Palermo un turno a porte chiuse per il lancio di petardi nella gara con la Lazio, due volte sospesa. Partiamo quindi dalle riforme costituzionali. Con 361 sì e 7 no, la Camera ha approvato il disegno di legge Boschi sulla riforma della Costituzione. Non hanno votato i deputati dell'opposizione. Favorevoli 361, contrari 7, la Camera approva. Il giorno delle riforme doveva essere ed il giorno delle riforme è stato la fine storica del bicameralismo paritario della nostra Costituzione, un sì arrivato in tempi più brevi del previsto ed una riforma che ora può essere sottoposta al referendum popolare che si svolgerà in ottobre. La soddisfazione dall'Iran del premier Renzi. Ci avevano raccontato che la politica non sarebbe stata in grado di decidere. E invece con questa riforma costituzionale si è dimostrato che la democrazia vince, che la democrazia trionfa. Ed è certamente il giorno della Boschi, ministro che ha twittato subito la sua soddisfazione ed ha poi parlato brevemente con i giornalisti. Penso sia davvero un risultato storico, quindi con una bella maggioranza ampia, per cui molto soddisfatti, molto contenti del risultato di oggi. A favore alla Camera 361 voti, 7 contrari, solo della maggioranza. Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Sinistra Italiana in aula non c'erano, mentre in piazza protestava il comitato per il no. Non ci sporchiamo le mani, votatele voi le riforme, le parole del grillino Toninelli. Voto atto eversivo, ha detto Brunetta in aula. Forza Italia non può che dire di no con fermezza. La carta costituzionale deve essere, continuare ad essere, la carta di tutti. Per questo il gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quindi la morte di Casaleggio a 61 anni, se n'è andato il fondatore del Movimento 5 Stelle, cordoglio espresso da tutto il mondo politico oggi, e dal blog di Grillo si apprende che i funerali si terranno a Milano giovedì 14 aprile alle 11 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie. Ma chi era davvero dietro questo anche alone di mistero che effettivamente ha coltivato Casaleggio nella sua vita, nella sua carriera, diciamo, di comunicatore politico? A quale futuro soprattutto attende il Movimento 5 Stelle? Ne parliamo tra poco con due ospiti. Voi però con le vostre riflessioni scrivete sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vedo già diversi messaggi, sia attraverso il numero per gli SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666. Passiamo intanto alla visita di Renzi oggi in Iran. Con 1 o 2 giorni a Teheran, Matteo Renzi ricambia la visita a Roma del presidente iraniano Rouhani, rimasta nelle cronache per le polemiche sulle statue velate in Campidoglio. In primo piano la ripresa dei rapporti economici fra i due paesi dopo l'intesa sul nucleare e la fine delle sanzioni contro l'Iran, tra gli accordi siglati anche quello per la costruzione di 2 linee ad alta velocità da parte delle ferrovie italiane. Altro dossier, quello sulla lotta al terrorismo, da Renzi un appello a combattere gli estremismi. Ci sono in Europa e anche nel mondo persone che confondono la fede nell'Islam con il terrorismo e la violenza. È un grave errore che va combattuto a livello innanzitutto culturale. Rouhani ha espresso la speranza che l'Italia possa tornare ad essere il primo partner commerciale europeo dell'Iran, così come lo era prima delle sanzioni. Fra gli altri incontri di Renzi anche quello con la guida spirituale iraniana, l'Ayatollah Khamenei. In serata invece la cena in ambasciata con gli imprenditori italiani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo alla crisi dei migranti, perché per l'Europa la barriera del Brennero, che già ha fatto protestare molto l'Italia, non è la soluzione. L'Austria insiste sulla necessità di creare una barriera al Brennero, lo dice usando proprio queste parole, misura necessaria e giusta, il cancelliere austriaco Faymann, posizione che fa infuriare l'Europa. Il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos da Strasburgo dice che ciò che sta accadendo fra Austria e Italia non è la soluzione giusta. Intanto sono sempre più numerosi gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo, il comandante Filippo Marini della Guardia Costiera. 5 operazioni sono state concluse positivamente con il salvataggio di 595 migranti. Nella giornata di ieri invece 1850 il numero di migranti che sono stati complessivamente tratti in salvo sempre nel canale di Sicilia. Se continuano gli sbarchi a questo ritmo e se il Brennero chiude, il rischio è che si formi al confine sul lato italiano un campo migranti spontaneo simile a quello di Domeni. I migranti resterebbero intrappolati dal blocco austriaco in Italia, senza però nemmeno la rete di protezione di un accordo europeo per il rimpatrio o per il ricollocamento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E va detto che nella sola giornata di oggi sono complessivamente 2.154 i migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Parliamo anche dell'assassinio di Regeni, perché l'Egitto evocherebbe la possibilità di consegnare i tabulati telefonici. Prima era un categorico no, ora è un forse. L'Egitto ipotizza un'apertura sulla consegna dei tabulati telefonici. Il ministro degli esteri Shoukry, infatti, evoca la possibilità di aggirare l'ostacolo costituzionale che si frapporrebbe alla trasmissione all'Italia dei dati sul traffico telefonico chiesti dalla Procura di Roma per le indagini. Conversazioni telefoniche considerate fondamentali dagli inquirenti italiani. Per l'Egitto, però, l'inchiesta potrebbe durare ancora molti mesi. Dunque l'accertamento della verità rimane ancora lontano. E tutto questo nonostante le pressioni sul Cairo arrivino ormai non solo dall'Italia. Anche il Foreign Office britannico infatti chiede la verità sul caso del ricercatore italiano che lavorava per l'Università di Cambridge. E dopo il richiamo dell'ambasciatore italiano Maurizio Massari rimane sul tavolo del governo sempre l'ipotesi di adottare altre misure, dalla sospensione degli accordi culturali a un avvertimento ai ricercatori fino ad una stretta al turismo, mentre si continua a cercare una sponda europea. Dopo la risoluzione bipartisan della plenaria di Strasburgo, oggi il presidente del gruppo socialista e democratico al Parlamento europeo Pittella chiede di più, e cioè che la Commissione europea riconsideri i suoi rapporti con l'Egitto, così come sta facendo l'Italia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Uno sguardo anche alle borse. Sui mercati finanziari è stata una giornata negativa per Milano, bene invece le altre borse. Piazza Affari ha perso con 1,57%, penalizzata soprattutto dal ritorno delle vendite sulle banche. Molte sono infatti le incertezze sul fondo da 6 miliardi di euro lanciato per stabilizzare il sistema bancario. A spingere a ribasso il listino anche il taglio della stima di crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale, che per quest'anno si aspetta un prodotto interno lordo italiano in rialzo dell'1% rispetto al precedente 1,3%. E tra i motivi della ripresa debole proprio i crediti deteriorati delle banche, così spiega il Fondo Monetario Internazionale. Una notizia dall'estero che riguarda la Germania. Vi ricordate il disastro ferroviario avvenuto in Baviera lo scorso febbraio, che è costato la vita a 11 persone? Bene, stavo usando il telefonino per giocare a un videogioco online. Il capostazione responsabile del disastro ferroviario di Bad Aibling, avvenuto in Baviera, lo ha reso noto la procura di Traunstein in Baviera, che ha disposto per l'uomo il carcere preventivo. L'accusa è adesso di omicidio colposo, lesioni colpose e intromissione pericolosa nel traffico ferroviario. Secondo la procura, il capostazione ha giocato fino a poco prima della collisione dei treni avvenuta il 9 febbraio. Nel bilancio ci sono anche 85 feriti, quindi distratto avrebbe dato un segnale sbagliato. Dall'Arabia Saudita sembra ancora lunga la battaglia che le donne saudite devono affrontare per vedersi riconosciuto il diritto alla guida. Il Gran Mufti Abdullah Aziz bin Abdullah al-Sheikh, massima autorità religiosa del regno, ha dichiarato, infatti, scrive il giornale inglese l'Independent, che la possibilità per le donne di mettersi al volante sarebbe una questione pericolosa che espone le donne al male. Parlando alla TV religiosa, al-Majid, il Gran Mufti ha spiegato che uomini con lo spirito debole e ossessione delle donne potrebbero fare del male alle donne che guidano. Inoltre, ha aggiunto, le famiglie si troverebbero nelle condizioni di non sapere dove si trovano le donne che guidano da sole, e quindi il divieto di guidare, secondo molte autorità religiose ed accademiche, non trova nessun riscontro nei libri sacri dell'Islam ed esiste solo nel regno ultraconservatore del Golfo. L'Arabia Saudita viene combattuto da tempo da molte attiviste saudite. Di nuovo in Italia con la cronaca, una ricercatrice 29enne di La Loggia in provincia di Torino, Valentina Tarallo, è stata uccisa a Ginevra nel corso di una rapina in strada nel quartiere degli ospedali universitari. La vittima, che frequentava un dottorato di microbiologia molecolare nella città elvetica, è stata colpita con una spranga da un uomo che l'ha aggredita per strapparle la borsetta mentre la giovane rientrava a casa. E poi per chiudere il calcio, una giornata a porte chiuse per il Palermo e la decisione presa dal giudice sportivo dopo gli incidenti in Palermo-Lazio, gara sospesa al 24esimo e poi al 14esimo del secondo tempo. Il giudice Tosella ha sanzionato il club rosanero per il lancio ripetuto in campo di oggetti contendenti e di petardi. E tra poco dovrebbe esserci il nostro Giovanni Capuano per aggiornarci invece sulla Champions. Ci sono due partite, non ci sono italiane però, Giovanni, no? No, non ci sono italiane perché purtroppo abbiamo abbandonato dal turno precedente la competizione. Ci sono però due partite e tra l'altro ci sono due partite che stanno regalando valanghe di emozioni. Il Real Madrid, che deve rimontare il 2-0, incassato all'andata settimana scorsa in Germania contro il Wolfsburg, sta già vincendo 2-0. Siamo alla mezz'ora. Ha fatto tutto Cristiano Ronaldo in 70 secondi, tra il 15esimo e il 17esimo, doppietta per lui, 15 gol in Champions in 10 partite, un record dopo l'altro che viene sbriciolato da Cristiano Ronaldo, partita che in questo momento andrebbe ai supplementari ma è ancora lunghissima. 0-0 invece tra Manchester City e Paris Saint-Germain, all'andata è finita 2-2 a Parigi e il Manchester City ha appena calciato fuori un calcio di rigore, lo ha sbagliato il Kun Aguero. Dunque si rimane sullo 0-0, risultato che al momento promuoverebbe il Manchester City, ma ripeto, Manchester che ha sbagliato un calcio di rigore proprio pochi istanti fa. Grazie Giovanni Capuano, poi ci risentiamo anche perché vogliamo capire come va adesso il Milan col nuovo allenatore, cioè insomma adesso appena arrivato Brocchi, ha detto anche una cosa spiritosa Brocchi, poi ne parleremo. Adesso però i vostri messaggi su quello che potrebbe essere il futuro nel Movimento 5 Stelle, una volta perso un leader così carismatico, importante come Casaleggio, scomparso all'età di 61 anni, e cosa ne pensate? È una domanda che si stanno naturalmente facendo in molti: chi sarà a guidare il movimento, il figlio Davide oppure il direttorio composto da quelli che vengono nominati più spesso, da Di Maio a Di Battista? E i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Matteo da Trapani dice: la morte di Casaleggio non può incrinare il solco tracciato apprezzato dal Movimento 5 Stelle e la crescente stima degli italiani a favore di questo modo nuovo di fare politica. Poi un altro messaggio: è puerile immaginare che la crisi dei 5 Stelle. I 5 Stelle non sono fenomeni, non dei 5 Stelle dovreste preoccuparvi, bensì del fallimento già avvenuto dell'Italia. Non sono i 5 Stelle a vincere, voi siete in fallimento. Non so a chi si rivolga, sinceramente nessuno ha parlato di nessun fallimento. Adelchi da Forlì: oggi due lutti, la scomparsa di una persona geniale e la demolizione della Costituzione della democrazia. Effettivamente queste sono le due notizie più importanti, ognuno vabbè, la vede dal proprio punto di vista, perché sapete appunto sono passate definitivamente le riforme costituzionali. Ancora un messaggio anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Federica scrive: credo che sarebbe più rispettoso riparlarne tra qualche giorno, lasciate almeno raffreddare il suo corpo prima di queste riflessioni, casomai prendetevi il tempo per capire chi era, perché si sono dette le peggio cose. Avremo un ospite anche che ci racconterà come testimone personale di conoscenza, di amicizia, un casaleggio chi è, ma inevitabile comunque si parla di politica, di un movimento importante, il secondo partito, movimento, come chiamarlo, del paese, o addirittura il primo secondo i sondaggi, comunque che andrebbe a ballottaggio adesso nelle prossime amministrative, quindi una questione molto importante, ne parleremo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, lo sapete, sempre sino alle 22, dalle 21 alle 22, con le notizie più importanti della giornata e con i vari approfondimenti. Man mano adesso entrerò nel cuore degli argomenti con l'aiuto degli ospiti che comincerò a salutare tra poco. Vi dicevo le due notizie più importanti, le riforme costituzionali, ne parleremo poi tra un po' dopo il primo argomento, ma prima di tutto parliamo della scomparsa di Gianroberto Casaleggio e di quello che potrebbe essere a questo punto il futuro del Movimento 5 Stelle, persa la colonna portante. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi o per i WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi, per i vostri commenti. A proposito di commenti, ne voglio leggere qualcun altro dei tanti che stanno arrivando. Per esempio Chiara scrive: imploderà il Movimento 5 Stelle serenamente, perché le creature inizieranno a tagliarsi le mutande di dosso l'uno contro l'altro e fra qualche tempo salterà fuori qualche altro ruffapopolo. Quindi diciamo poco ottimista Chiara. Ilaria dice: credo che non credo alla polverizzazione del movimento, vedo parecchia coesione tra di loro, blindati da un ferrigno, crede di essere sempre comunque nel giusto. Alessio dice: Casaleggio ha dato il via a questa grande comunità che è il movimento, adesso che non c'è più il Movimento 5 Stelle rimane quella comunità che siamo noi, migliaia di portavoce, attivisti, simpatizzanti che proseguono la strada segnata. Gianluca scrive: migliorerà tutto, sono indipendenti e già formati, può iniziare il momento di maturità del movimento. Adesso lo vedremo anche con gli ospiti tra poco. Vi ricordo però, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali della giornata. È morto a 61 anni Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle. Il movimento è un bivio. Grillo annulla il suo show a Napoli per correre a Milano. Cordoglio unanime da parte del mondo della politica. Via libero definitivo alle riforme alla Camera. Opposizioni sull'Aventino, sono uscite dall'aula. Il Movimento 5 Stelle e Forza Italia dicono: non ci sporchiamo le mani. La ministra Boschi invece afferma: godiamoci il momento, esulta Renzi. Bruxelles boccia il muro del Brennero da parte dell'Austria. Non è una soluzione, dice l'Unione Europea preoccupata, e Vienna replica: sono misure necessarie e giuste. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime per il PIL dell'Italia. E poi Rouhani, la visita di Renzi oggi in Iran, Rouhani accoglie il Presidente del Consiglio italiano e dice: l'Italia torni il nostro primo partner. Gentiloni che vola in Libia, il ministro degli esteri italiano, aiuti e appoggio al Premier Serraj, assicura. E poi Regeni, spiragli dall'Egitto per la possibile consegna di Tabulati, anche se il ministro egiziano dice ci vorrà molto tempo per l'inchiesta. E poi questa sorpresa di un nuovo possibile Caravaggio ritrovato in una soffitta francese, si aspettano appunto gli esperti per una valutazione più attenta. Parliamo quindi della scomparsa di Gian Roberto Casaleggio, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Qualcuno dice il vero inventore del Movimento 5 Stelle, è stato definito in tanti modi guru, anche se pare che lui non amasse questo appellativo, innovatore, genio creativo, sognatore, rivoluzionario, visionario. Sicuramente è stato un vero protagonista della politica degli ultimi anni, perché non c'è dubbio che abbia introdotto un modo diverso di fare politica in Italia, e sia stato un precursore, perché ha colto nel segno questa esigenza, questa istanza di di rivolta dal basso nei confronti della casta, della vecchia dirigenza politica, neanche di un vecchio modo di comunicare. La rete, no? Lui è stato quello che ha, diciamo, introdotto la rete nella comunicazione in modo dominante, uno strumento che consente anche a chi sente di non contare nulla di avere voce, e per una democrazia partecipata dal basso. Ne parliamo con Francesco Maisano, commentatore politico della Stampa. Ciao Francesco. Stiamo chiamando, evidentemente non è ancora al telefono. Intanto saluto Aldo Giannulli, professor Giannulli, buonasera. Buonasera. Che è docente di storia del mondo contemporaneo all'Università degli Studi di Milano e tra l'altro ha collaborato anche col Movimento 5 Stelle dando una serie di lezioni anche sul blog di Grillo, ovvero sulla legge elettorale, una legge elettorale, sì, che un'ipotesi di legge elettorale che voleva avanzare il Movimento 5 Stelle, professor Giannulli. Sì, per la verità presentò anche la proposta di legge, quindi poi è servito a qualcosa. Professore, allora, prima, visto che abbiamo raggiunto Francesco Maisano, Francesco, ci sei? Ciao. Ciao Francesco. Allora, vorrei prima appunto un'analisi politica di Francesco Maisano. Dicevamo che Casaleggio, sicuramente, con tutti gli appellativi che ha avuto, da guru, da innovatore, da visionario, genio creativo, sognatore, eccetera, sicuramente è stato uno che ha introdotto nella politica un modo nuovo, no? Di fare politica, di fare comunicazione. Sì, assolutamente. Assolutamente. Casaleggio ha portato la disintermediazione. Oggi sentivo fare un parallelo molto interessante. Si diceva che Silvio Berlusconi in qualche modo è riuscito a conquistare il paese, a fondare un partito che alla prima botta, insomma, è riuscito ad arrivare al risultato straordinario che ha avuto vincendo le elezioni. Invece Gianroberto Casaleggio non ha vinto le elezioni, ma comunque ha colto un risultato straordinario, che è quello dei 9 milioni di voti, e l'ha fatto puntando tutto forte sulla disintermediazione, cioè sui nuovi mezzi di comunicazione, e spesso avendo un rapporto anche così conflittuale, no? Con vecchi schemi, con la carta stampata, con la televisione. Questo certamente è stato l'aspetto più innovativo del suo modo di fare comunicazione, ma è una cosa che Casaleggio ha provato a spingere, a portare avanti anche da prima, da quando era soltanto un comunicatore politico e non aveva la figura di fondatore del Movimento 5 Stelle. Era un po' la cifra distintiva del suo lavoro. Senti, per quanto riguarda adesso, poi la domanda, no, che continua ad aleggiare, è chi guiderà adesso il Movimento 5 Stelle. Abbiamo subito, così mettiamo da parte invece le varie polemiche e critiche che ci sono state più volte nei suoi confronti, di poca trasparenza, poi questo si dice alone di mistero, anche se qualche ascoltatore sta criticando, dice: nessun alone di mistero, l'avrete creato voi giornalisti a medie per distogliere, denigrare il movimento, un uomo che lavora e che ha, vediamo se riesco a vedere per completezza questo messaggio, no, non riesco a vedere il resto. Che ne dici, Francesco, di questa parte? Certamente molto discreta, anche nel modo in cui ha gestito la malattia, il modo in cui se n'è andato, sintomo di una enorme attenzione per la discrezione nella propria vita personale. Questo evidentemente nel momento in cui, come diciamo prima, si coglie un risultato straordinario come quello delle elezioni del 2013, si entra in Parlamento con oltre 160 parlamentari, poi si viene passati ai raggi X dalla stampa, dai mezzi di informazione, e il fatto che lui fosse una figura che contava così tanto per un partito che conta così tanto nel panorama politico, e fosse così poco raggiungibile, scandagliabile, ci fosse così poco anche accountability sulle sue decisioni che hanno pesato per tutta la vita politica finora del Movimento 5 Stelle, ovviamente ha fatto nascere anche un po' una luna di sospetto sul modo in cui le decisioni venivano prese, su una questione di trasparenza, insomma, il fatto che una persona del genere contasse così tanto, rispondesse così poco all'interno del dibattito pubblico. Detto questo, ripeto, è la cifra di Gianroberto Casaleggio, il fatto di essere così un po' imprendibile, un po' più nascosto degli altri, più leggero in qualche modo degli altri, il modo di parlare di politica anche con i suoi deputati e senatori. Gianroberto Casaleggio è stato sempre poco tattico e molto strategico, è sempre stato improntato alla visione strategica e al raggiungimento di obiettivi sempre un po' più in là, mai nell'immediato, sempre verso un anno, 2 anni, 3 anni e più in là. Senti, che ripercussioni quindi può avere la scomparsa della colonna portante insieme a Grillo? Perché Grillo è il comunicatore, il frontman, no? Quello sul palco, quello che ha il carisma comunicativo diretto, mentre appunto, come dicevi tu, è più per la strategia dietro le quinte Casaleggio. Adesso ci si pone la domanda, potrà essere il suo successore Davide Casaleggio oppure il direttorio con Di Maio, Fico, Di Battista? Io credo che la successione politica sia tutta in capo a Luigi Di Maio, per delle ragioni che attengono al fatto che lo stesso Gianroberto Casaleggio ad aver instradato le cose verso quella soluzione lì. Davide Casaleggio, negli incontri che ha avuto con i parlamentari, ha sempre abbastanza escluso la possibilità di fare politica direttamente, ma d'altra parte un ruolo come quello di Casaleggio, che è il ruolo di inventore del Movimento 5 Stelle, di guida iniziale, non è replicabile, semplicemente perché non sono replicabili quelle condizioni iniziali del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha avuto la sua fase iniziale, che in questo momento però può dirsi conclusa anche così tristemente con la sua scomparsa, ma è una conclusione che è già iniziata da un paio d'anni. La sua trasformazione all'interno del Movimento 5 Stelle non è una cosa che inizierà adesso, è una cosa che continua, prosegue, e questa ne è una triste tappa di questo movimento, ma non si conclude, non inizia, non si conclude certamente adesso. È un percorso progressivo che porterà la leadership e la frontmanship soprattutto in capo a Luigi Di Maio per le elezioni del 2018, o quando ci saranno. Senti, è vero come dice qualcuno che Grillo e soprattutto Casaleggio servivano un po' da contrappeso nel Movimento 5 Stelle, perché il movimento tenderebbe più a sinistra, loro però lo tiravano un po' più indietro verso destra su vari temi, dall'immigrazione alle unioni civili, no? Con la stepchild adoption eccetera più recentemente. Io credo che loro si siano ritrovati con un corpo parlamentare, con un personale politico abbastanza schierato verso la sinistra, comunque proveniva da storie di sinistra, e abbiano cercato di fare da contrappeso nella misura in cui loro hanno sempre concepito il Movimento 5 Stelle come imprendibile, inafferrabile, cross ideologico da quel punto di vista. Hanno sempre cercato di mantenere una forza politica che non avesse una chiara connotazione ideologica, proprio perché nello schema di Casaleggio l'ideologia è qualcosa di vecchio, superabile, superato probabilmente, ma questa poi... questo sono stati dei precursori, se vogliamo, dal punto di vista del panorama politico, perché anche altre forze poi si sono un po' accodate. Se pensiamo ad esempio al Partito Democratico stesso, che ha una sua radice storica che proviene dalla sinistra, dal centrosinistra, ma poi è riuscito a prendere delle decisioni di governo che non appartengono classicamente a quello che noi siamo abituati a considerare la sinistra. Quindi credo che anche in quello abbia un po' tracciato la via. Quindi tu li vedi comunque camminare sulle proprie gambe, a questo punto consolidarsi nella leadership di Di Maio in particolare, perché c'è questo ascoltatore Giovanni che scrive: Roberto, il Movimento 5 Stelle non morirà per un semplice motivo, è già morto ormai da tempo, è servito solo da scalino per l'ascesa del PD. Non mi sembra però una lettura politica molto lucida, anche perché si dà al 30% in questo momento, mi sembra, i sondaggi, il Movimento 5 Stelle è molto alto. È un momento di ascesa, il Movimento 5 Stelle adesso si vedrà poi nei sondaggi. Il problema dei sondaggi che parlano delle elezioni politiche, che non ci sono elezioni politiche alle viste, quindi è un po' più complicato. Bisognerà vedere le amministrative come andranno, e quello è il vero test politico nazionale per capire quant'è la consistenza del Movimento 5 Stelle. Un'ultimissima cosa, Francesco Maisano. Leggevo che da fonti vicino al Movimento 5 Stelle avrebbe lasciato un testamento politico Casaleggio. È facile, no? Che prevedendo... Casaleggio ha avuto un ultimo incontro con i suoi parlamentari. Non so se abbia lasciato qualcosa di scritto, francamente ancora non mi risulta, ma il punto è che il testamento politico di Gianroberto Casaleggio è il Movimento 5 Stelle che vedremo da qui in poi, cioè non c'è un Movimento 5 Stelle non informato alle strategie, alla visione di Gianroberto Casaleggio da qui, almeno da qui a un anno e mezzo. Poi le cose potranno sempre cambiare, ma per il prossimo anno, anno e mezzo, noi vedremo ancora il Movimento 5 Stelle che ha immaginato Gianroberto Casaleggio. Forse il vero testamento politico sarà il modo di fare politica che avranno i 5 Stelle da qui in poi. Grazie Francesco Maisano della Stampa. Grazie a voi. Ciao Francesco. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro. Vogliamo sentire, vedo Crozza sulla 7, vediamo se ci strappa un sorriso. Integrità fuori, vuoi dialogo? Basta che urli. Più dialogo? Vabbè, ci mettiamo citofono. Ancora muri. Ancora muri, giova, dalla muraglia cinese al vallo di Adriano sono 2000 anni. Ce la conviene il muro, il Brennero, cosiddetto muro. Comincia con le cazzuole, sempre che le parole non siano di Salvini, perché con lui appena si parla di frontiere, passare dalle cazzuole alle cazzate, sai che è proprio un attimo, vero? Va bene, noi passiamo a questa prima pausa, anzi una seconda pausa di ricreazione qui a Effetto Notte. Voi continuate con i vostri messaggi 349-238-6666 per dire quale potrebbe essere adesso il futuro e la leadership del Movimento 5 Stelle, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo tra pochissimo. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Si sente. E a tutti i convocati weekend, ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, naturalmente. Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi, le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, oggi su quello che aspetta il Movimento 5 Stelle da oggi in poi, dopo la perdita enorme dell'inventore Casaleggio. Abbiamo detto tante le definizioni, gli appellativi, da visionario a genio creativo, rivoluzionario. Comunque oggi ha lasciato il Movimento a 61 anni, aveva creato insieme a Beppe Grillo, e ormai il Movimento si trova orfano di questa mente visionaria, appunto, che consentiva di guardare oltre l'orizzonte comune della politica italiana, che sicuramente ha introdotto, come dicevamo prima, un modo diverso di fare politica e comunicazione. Ci siamo persi per la strada il professor Aldo Giannulli, che lo conosceva personalmente, dato che era diventato amico di Casaleggio nel 2014, perché Grillo e Casaleggio gli avevano chiesto di tenere sul blog di Grillo un ciclo di lezioni sulla legge elettorale. Volevano elaborare una propria legge, proposta di legge elettorale. Però sapete come fanno a volte i cellulari, gli scherzi che fanno gli stessi proprietari cellulari, che a volte non li caricano a sufficienza, per cui ce lo siamo perso per strada. E passiamo a questo peccato, perché era una testimonianza personale. Tra poco parleremo invece dell'altra grande, grossa notizia politica del giorno, che sono le riforme costituzionali, anche se per esempio c'è Massimo che scrive al numero 349-238-6666 al referendum costituzionale, che ci sarà a ottobre, voterò contro la riforma solo per il fatto che Renzi ci ha messo sopra il ricatto delle sue dimissioni. Per insegnargli che certe furbate non pagano, anzi sono controproducenti, invito tutti a fare altrettanto e a dichiararlo. Ne parleremo a momenti, e adesso vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, le riforme costituzionali, alla Camera il sì definitivo, addio al Senato, ora l'ultima parola ai cittadini col referendum di ottobre, ne parleremo tra breve. La morte di Casaleggio, a 61 anni se n'è andato il fondatore del Movimento 5 Stelle, cordoglio da tutto il mondo politico, giovedì i funerali a Milano. La visita di Renzi in Iran, il presidente Rouhani dice vogliamo l'Italia come primo partner. Migranti, Bruxelles boccia il muro del Brennero, non è una soluzione, avverte l'Unione Europea preoccupata, e Vienna replica misure necessarie e giuste. L'assassinio di Giulio Regeni, spiragli dall'Egitto per la consegna dei tabulati, ma l'inchiesta, avverte il ministro dell'interno egiziano, dice sarà comunque lunga, e Londra intanto chiede più trasparenza. Borse, banche a picco e piazza affari, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime del prodotto interno lordo italiano e mondiale. Svizzera, una giovane ricercatrice torinese uccisa da un rapinatore a Ginevra. Calcio, prima giornata del Milan con il nuovo allenatore Brocchi. Parliamo quindi di riforme costituzionali, perché oggi la Camera ha dato il via definitivo al disegno di legge della ministra Boschi sulla riforma costituzionale, che è stato approvato alla Camera con 367 voti a favore e 7 contrari. Quindi addio al Senato, addio al bicameralismo perfetto. Non hanno votato i deputati dell'opposizione, che per protesta sono usciti. Quindi con la sesta e ultima votazione il provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione, non avendo ottenuto la maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, quindi né alla Camera né al Senato, può essere sottoposto a referendum popolare, cosa che avverrà a ottobre. L'ultima parola quindi spetterà ai cittadini. Ne parliamo con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara. Buonasera. Ecco, commentatrice, come commenti al momento questa esultazione da parte di Renzi, della ministra Boschi, poi li sentiremo, e la contrarietà delle opposizioni? La minoranza Dem ha votato, anche se poi dice però ora bisogna rivedere l'Italicum, come dire, noi abbiamo dato una mano in questo senso, però poi si deve rivedere l'Italicum. Al momento com'è la situazione, Barbara? Al momento direi che, come al solito, in questo periodo mi sembra abbastanza confusa. C'è da dire intanto, come premessa, che il referendum confermativo a cui tu facevi riferimento è un referendum particolare perché è senza quorum. Questo cosa significa? Significa che comunque i sì alla riforma dovranno prevalere sui no, perché la riforma diventi poi legge, quindi modifichi effettivamente la Costituzione. E non a caso Renzi ha posto il quesito referendario come una sorta di quesito sulla sua permanenza al governo o meno. Questa personalizzazione da parte del Premier potrebbe giocare a suo sfavore, nel senso che proprio la personalizzazione ricompatta le opposizioni. Abbiamo visto che oggi anche Silvio Berlusconi ha espresso in toni insomma abbastanza duri la contrarietà alla riforma, nonostante il testo inizialmente fosse stato votato anche da Forza Italia, perché, come ricordiamo, questo testo, questa riforma, bisogna sempre ricordare, perché in Italia spesso ci dimentichiamo le puntate precedenti, nasce quando Giorgio Napolitano accetta, su richiesta di gran parte delle forze politiche, la sua ricandidatura al Quirinale proprio per le riforme. E quindi, diciamo, quello fu un passaggio che avvenne dopo le elezioni politiche e che diede vita a una legislatura un po' anomala, appunto, in cui Forza Italia inizialmente entrò al governo, poi sappiamo come sono andate le cose, alla fine è rimasto soltanto la parte, diciamo, Alfano con il suo nuovo partito, che è rimasto ad appoggiare il governo. Questo lo dico perché appunto si capisce un po' com'è stato il processo. Adesso è evidente che in questa personalizzazione di Renzi a suo svantaggio giocano anche i dissidi interni al Partito Democratico, perché la minoranza vuole sfruttare ogni possibilità per mettere in difficoltà quello che a questo punto considera un vero e proprio usurpatore della ditta, come è stata più volte definita da Pierluigi Bersani il Partito Democratico. E quindi questa personalizzazione alla fine effettivamente si risolverà anche come una sorta di sì o no, più che alla riforma costituzionale, a Renzi, anche se dobbiamo dire che questa riforma costituzionale, nonostante tutta una serie di zone d'ombra, effettivamente una modifica importante, come tu citavi inizialmente, cioè la fine del bicameralismo perfetto, la introduce, e non è una modifica da poco in un paese che solitamente vede nella navetta tra una Camera e l'altra non solo un dilungarsi dei tempi, ma spesso e soprattutto un incremento della spesa, cioè laddove bisogna dare retta alle istanze che arrivano da diverse parti, per far passare un provvedimento spesso si mettono degli emendamenti per facilitare, no, il passaggio del provvedimento. Se si riducono i passaggi, si velocizza qualcosa di più. Barbara, senti, ma comunque non partirà prima, se non sbaglio, del 2020 questa riforma? No, perché no, non è che non partirà prima del 2020. Diciamo che un primo aspetto è sicuramente il collegamento con la legge elettorale, nel senso che non a caso la minoranza del Partito Democratico, ma non solo, cioè tutte le forze politiche, forse tranne i 5 Stelle che su questo aspetto dell'Italicum tacciono, vorrebbero una modifica della legge costituzionale, vorrebbero, come dire, eliminare soprattutto il premio di lista della legge elettorale. Della legge elettorale. Questo perché collego le due, e non a caso le collega la minoranza PD, perché essendoci una sola Camera, e l'Italicum prevede una sola Camera, il passaggio della riforma costituzionale rende applicabile l'Italicum, cosa che non avverrebbe invece se il referendum dovesse bocciare la riforma costituzionale, perché a quel punto bisognerebbe rifare la legge elettorale, perché da luglio la legge elettorale è in vigore, come sappiamo. E allora bisognerà appunto vedere che cosa succede a ottobre. A questo punto se ne parla, ma già la battaglia è iniziata, soprattutto da parte appunto delle opposizioni. Barbara Fameri, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi sul lutto, le condoglianze al Movimento 5 Stelle, alla famiglia di Casaleggio per la sua scomparsa, ma anche le domande che molti si pongono su quello che sarà il successore o comunque la leadership del Movimento 5 Stelle e anche il percorso del Movimento 5 Stelle. Piero scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma anche i messaggi, il 349-238-6666: il Movimento 5 Stelle durerà ancora a lungo. Poi scrive puntini puntini, purtroppo. Alessandra dice ci sono tanti grillini. Maurizio, io so il futuro di noi 5 Stelle, ma non posso dirtelo, Roberta, abbiamo un segreto dentro il cuore che sappiamo solo noi del Movimento 5 Stelle, dice Maurizio. Possibilino questo messaggio. Adesso vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti, che sono quelle appunto della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, con il cordoglio di tutto il mondo politico. I funerali ci saranno giovedì, poi via libera definitiva alle riforme, ne abbiamo parlato adesso con le opposizioni che si sono ritirate, mi si dice sull'Aventino, sono uscite dall'aula, e poi Bruxelles che boccia il muro del Brennero. Europa 24 notte. In Europa arrivano nuove regole per combattere l'evasione fiscale da parte delle multinazionali. Più trasparenza per far luce su quelle multinazionali che nascondono i profitti per sfuggire al fisco. E questo è l'obiettivo della Commissione europea, che ha proposto nuovi obblighi di comunicazione per le società con almeno 750 milioni di euro di fatturato l'anno. Un modo per combattere l'evasione ed evitare futuri casi come l'AxiLeaks, Panama Papers e così via. Ogni anno le aziende dovranno pubblicare, in tutti i paesi dove operano e hanno filiali, le informazioni fiscali più importanti, ovvero l'elenco dei profitti al netto delle imposte, l'ammontare delle tasse richieste e di quelle pagate, la natura delle attività, il numero di dipendenti, gli altri guadagni realizzati e così via, dati che rimarranno disponibili per 5 anni. Dovranno anche rendere note le tasse pagate nei paesi fuori dall'Unione Europea, inseriti in una blacklist. Le multinazionali pubblicheranno le stesse informazioni che comunicano nei paesi europei, ha detto Jonathan Hill, commissario europeo per la stabilità finanziaria. Ciò significa, ad esempio, che se un'azienda attiva in Europa paga le tasse a Panama, deve comunicarlo. La direttiva riguarderà circa 6.000 società, che per i dati OCSE rappresentano il 90% del giro d'affari delle multinazionali in Europa. Nel vecchio continente l'elusione fiscale costa agli stati tra i 50 e i 70 miliardi di euro l'anno in termini di perdite di gettito, come riporta uno studio del Parlamento europeo. In più, spesso le piccole e medie imprese sono penalizzate dal comportamento fiscale aggressivo delle grandi aziende. Secondo le stime della Commissione, una società che opera in più stati paga in media fino al 30% di tasse in meno rispetto a una soggetta a un solo ente fiscale. Per Bruxelles si tratta quindi di un modo per riportare equità. La proposta di direttiva passa ora al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora aggiornamenti velocissimi da Giovanni Capuano sui quarti di ritorno di Champions League, ma soprattutto ci dici come va questa prima giornata con Brocchi, il nuovo allenatore del Milan. Giovanni? Ma allora, rapidamente per la Champions League, secondo tempo iniziato da 5 minuti su tutti e due i campi, il Real Madrid continua a vincere 2-0 sul Wolfsburg con la doppietta intorno al quarto d'ora di Cristiano Ronaldo, e siamo sempre 0-0 a Manchester tra il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda la lunghissima prima giornata di Christian Brocchi da allenatore del Milan, è finita pochi minuti fa, perché pochi minuti fa Silvio Berlusconi sulla sua pagina Facebook ha pubblicato alcune righe nelle quali ha ringraziato Sinisa Mihajlovic per quello che ha fatto, però lo ha punzecchiato, del resto l'aveva appena licenziato, ha detto il Milan deve fare di più, Ha detto anche Brocchi è una scelta per preparare un futuro all'altezza del passato del Milan. A fine stagione trarremo le somme e faremo poi tutte le scelte necessarie. Il che significa, ma lo si sapeva, che in realtà Brocchi ha soltanto un contratto di 2 mesi, cioè di 7 partite, 6 di campionato più la finale di Coppa Italia, per cercare di convincere il Milan ad affidargli poi il progetto della prossima stagione. È un'impresa non impossibile, ma tutt'altro che facile. Berlusconi da un anno travede per Christian Brocchi, lo voleva la guida del Milan, era stato fermato più volte, soprattutto nelle ultime settimane, da Gagliani e da alcuni consiglieri come Arrigo Sacchi. Poi l'ultima sconfitta, quella contro la Juventus, non è piaciuta e quindi si è arrivati a sorpresa ieri sera all'esonero. Oggi Brocchi ha diretto il primo allenamento, lo ha fatto schierando il Milan con il modulo che piace a Berlusconi, e anche questa, diciamo, non è una sorpresa, perché evidentemente le idee dei due coincidono perfettamente. Ha tempo fino a lunedì per preparare la squadra per la trasferta contro il Carpi, nella quale il Milan è obbligato a vincere. Beh, questo Brocchi lo sa benissimo, perché altrimenti rischia il sesto posto e la qualificazione in Europa. Tra l'altro ha creato una maglietta che, dove c'è scritto Brocchi si nasce, campioni si diventa. Buona fortuna. L'aveva creata un paio di anni fa, quando allenava le giovanili della Lazio, ed è una cosa che lui è molto spiritoso, evidentemente ha nel DNA. Gli ha portato fortuna. Grazie Giovanni Capuano, noi ci stiamo alle 22.